Qualunque città può contare su un certo numero di leggende metropolitane legate a fantasmi e case infestate. Naturalmente, il cimitero monumentale della Certosa è protagonista di una buona quantità di letteratura in merito a veri o presunti avvistamenti. Nel periodico Ehi, Calscusa, del 1844, è presente un racconto firmato Saverio Montewood in cui si immagina il defunto ingegnere Giuseppe Ceri apparire durante una notte in cui la luna d'argento matto illumina i muri, circondato da pipistrelli che vanno man mano restringendosi alla tuba. In Aneddoti bolognesi del 1929, Alfredo Testoni e Oreste Trebbi raccontano dello scienziato Quirico Filopanti, alla ricerca di fuochi fatui, burlato dal custode del cimitero che, con in mano una lanterna, cominciò a muoversi in diverse direzioni. Ma la casa stregata più famosa di Bologna è certamente Villa Clara, situata al civico 449 di via Zanardi, in una zona non raggiunta dall'illuminazione stradale. Dalla presenza dello stemma di Papa Gregorio XIII sulla sommità del camino del salone principale, si stima che sia stata costruita tra il 1572 e il 1585. Era infatti consuetudine in passato raffigurare il pontefice regnante durante la costruzione degli edifici nobiliari. Alla fine del Seicento, alla morte dell'ultimo erede della famiglia Malvasia che la abitava, fu ceduta all'Arciconfraternita della Vita. È da questo momento in poi che si perdono le tracce dei proprietari della villa. Risale a un episodio avvenuto tra il 700 e l'800, la presunta fama sinistra della casa. Nacque così la leggenda della piccola Clara, figlia unica di un nobiluomo e della sua giovane compagna, che fu murata viva a causa dei suoi poteri paranormali. Pare che annunciasse sciagure che puntualmente si verificavano. Gli scettici sostengono che Clara sia soltanto il nome di una delle proprietarie della villa che si sarebbero avvicendate nel corso dei secoli, come testimonia l'insegna in ferro battuto con la scritta Villa Clara posta in cima al cancello d'entrata. Durante il Novecento, e in particolare a partire dal secondo dopoguerra, l'edificio ha subito un lento e inesorabile declino, che ha messo a repentaglio la conservazione degli affreschi che ne adornano le sale. Nel 2009, la svolta. Un articolo de Il Resto del Carlino annuncia che la casa è stata ereditata da Maria Vittoria Bossi, che ha scoperto tramite il testamento di essere figlia dell'ultimo proprietario della villa, l'ingegner Alessandro Alessandri, e di aver appena ereditato la casa stregata più famosa di Bologna. La signora Bossi ha annunciato pubblicamente di avere intenzione di restaurare l'edificio e le numerose opere d'arte contenute al suo interno, per poi aprirlo al pubblico. Da allora, tuttavia, non sono state diffuse altre notizie in merito. Tutti conoscono il film di Pupi Avati, La casa dalle finestre che ridono. In pochi sanno che la celebre abitazione del pittore delle agonie Buono Legnani, caratterizzata dalle bocche sorridenti dipinte sulle finestre, era in realtà nelle campagne di Bologna. In un'intervista, il regista ha dichiarato che l'idea di realizzare il film gli è venuta a partire da una storia che gli raccontavano spesso da bambino, quella del prete Donna, un personaggio che dalle sue parti era divenuto uno spauracchio per tenere buoni i più piccoli. Pare che ci fosse un fondo di verità. Nel comune dove abitava, infatti, l'apertura della tomba di un prete aveva rivelato i resti appartenuti in realtà a una donna. È stato un gruppo di blogger a scoprire che la casa utilizzata durante le riprese sorgeva dalle parti di Malalbergo, a pochi passi dalla riva del Navile. Si trattava di un casolare disabitato da anni, in cui uno studente in belle arti amico del regista ebbe l'idea di disegnare le grandi labbra sorridenti che divennero poi l'emblema del film che stavano girando. Purtroppo, pochi anni dopo la fine delle riprese, la casa è stata abbattuta dai proprietari del terreno. Tra le dimore infestate non può mancare un castello con fantasma. È il castello dei Manzoli, in località San Martino in Soverzano, vicino al borgo medievale di Minerbio. La leggenda narra che ogni anno, il 2 dicembre, lo spettro del conte Marchione Manzoli appaia, preceduto dal rumore degli zoccoli di un cavallo, nello stesso luogo in cui fu assassinato, lo stesso giorno del 1527. Non sarà un castello infestato, ma merita senza alcun dubbio una visita, infine, la Rocchetta Mattei, situata a Grizzana Morandi sull'Appennino bolognese. Con il suo stile a metà tra il medievale e il moresco, è in grado di suscitare un sentimento di autentica meraviglia. In passato, la Rocchetta fu dimora del conte Cesare Mattei, inventore di un rimedio medicinale chiamato elettromeopatia, simile all'omeopatia. Di questa disciplina parlò persino Dostoevskij nei Fratelli Karamazov. Nel romanzo è il diavolo in persona a elogiare le virtù delle scoperte del conte. Ma che filosofia è filosofia? Quando tutta la parte destra del corpo mi si è paralizzata e io non faccio che gemere e lamentarmi. Ho tentato tutti i rimedi della medicina senza alcun beneficio. Disperato, ho scritto al conte Mattei, che mi ha mandato un libro e delle gocce. Che Dio lo benedica! Hai appena ascoltato Alla scoperta dei segreti perduti di Bologna.